Siamo in collegamento con Giusy Salis per parlare di Hezbollah. Giusy, ci sei? Sì, ciao a tutti, eccomi qua. Eccoci. Allora, ci racconti un po' di questo progetto? Sì, allora, è un progetto, diciamo, che ha una origine non vicinissima nel tempo, nel senso che è nato al meeting antirazzista, o meglio da alcuni laboratori che abbiamo fatto negli anni al meeting antirazzista insieme all'Atlante delle guerre e dei conflitti, dove abbiamo iniziato ad interrogarci sui linguaggi con cui vengono raccontate le migrazioni. Perché si passa da un politicamente corretto asettico, diciamo, che a volte nasconde però una sostanza non così corretta, e il politicamente scorretto più scatenato, e quindi volevamo trovare un nuovo modo di raccontare, diciamo, questi nuovi vicini, no, di casa. Sì. E da lì abbiamo iniziato la collaborazione con l'Atlante. Interrompimi quando ti pare, perché io vado a ruota libera, potrei vai, finire vai. Domani. Vai tranquilla. Da lì è nato un primo spettacolo che si chiama Tutta un'altra storia, nel senso che abbiamo ascoltato la storia di un ragazzo che è arrivato qui dal Mali attraverso varie vicissitudini e che collabora anche lui da tempo con l'Atlante dei conflitti, durante la notte, dopo aver chiaramente studiato nei giorni precedenti dei pattern comunicativi, abbiamo riscritto questa storia come l'avrebbe raccontata Salvini, come l'avrebbe raccontata Renzi, come l'avrebbe raccontata Larci, tutta una serie, diciamo, di attori istituzionali o meno che si trovano ad affrontare l'argomento, e l'abbiamo restituita il giorno dopo, nel secondo giorno del laboratorio. Da lì poi abbiamo iniziato a lavorare su un corso di formazione per giornalisti che si chiama Dillo con parole tue, dove, pur con attenzione a quello che chiede la Carta di Roma, che è un codice deontologico specifico dell'ordine dei giornalisti proprio per quanto riguarda i linguaggi dei migranti, abbiamo cercato però di andare oltre il politicamente corretto e alla sostanza del messaggio che si racconta, no? Sì. Perché dire migrante può avere anche una poesia, ma poi allo stesso tempo, se tu dici questi migranti che vengono a romperci i coglioni, si può dire, no? Comunque il messaggio che trasmetti è molto al di là della Carta di Roma. E da lì, durante una presentazione dell'Atlante delle guerre e dei conflitti presso la sede di CGIL Toscana qui a Firenze, a cui abbiamo partecipato non perché non conoscessimo l'Atlante, ma volevamo salutare i nostri amici, è venuto in mente proprio alla CGIL di chiederci di trasporre in forma teatrale l'Atlante, perché anche loro, diciamo, nelle loro basi associative hanno notato che non è così pacifico il modo di rapportarsi, no, a questo, all'argomento delle migrazioni. Ci siamo un po' spaventate, ma abbiamo accettato questa sfida, perché pensiamo che l'Atlante sia un ottimo spunto. A parte affascinante pensare di portare una carta geografica a teatro, è molto affascinante come idea, e poi anche per cercare di andare alle cause dei movimenti delle persone, al di là della legittima aspirazione delle persone a cambiare vita quando ne hanno voglia, no? Perché anche Salvini ora magnanimamente dice chi scappa dalla guerra è mio fratello, ma a noi non piace che questa sia, come dire, una sorta di unica legittimazione, perché diciamo che la migrazione è un effetto di secondo livello, anche la guerra è a sua volta un effetto, ed è l'effetto di politiche che possiamo definire predatorie. Siamo troppo... No. Un linguaggio, no. Eh? Ci intendiamo. Politiche, sì. Predatorie che mezzo mondo compie nei paesi di chi viene qua, e per cui si determinano diciamo colonizzazioni di vario tipo: colonizzazioni culturali, colonizzazioni economiche, il depauperamento del territorio, il land grabbing, no? Con le multinazionali che acquistano per poche lire in distese enormi di territorio in paesi dove ancora non esiste una certificazione della proprietà, ma dove la gente da millenni vive dei frutti di quelle terre, i cambiamenti climatici. Quindi le motivazioni degli spostamenti in realtà sono altre. Quello che noi viviamo come la causa di un nostro disagio in realtà è un effetto di politiche predatorie che da secoli facciamo subire a queste persone. Sì. Al di là del fatto che poi, anche se non ci fossero cause, io ritengo che l'essere umano abbia diritto di muoversi come quando gli pare, per seguire le sue aspirazioni, i suoi desideri e i suoi sogni, perché non è che ci deve essere necessariamente la tragedia dietro, no, per muoversi. Certo, certo, certo. Senti Giusy, questa è un po' la genesi. Sì, sì. E allora ci materialmente ci spieghi i prossimi appuntamenti? Sì. Allora, il prossimo appuntamento proprio immediatissimo è la presentazione di un corto giovedì alle 15, che non è il trailer dello spettacolo, ma è proprio il primo passo della realizzazione del progetto Hezbollah, perché vogliamo comunicare, abbiamo ampliato, diciamo, il progetto originario e vogliamo trovare diversi mezzi comunicativi, perché vogliamo sperare, attraverso la cifra stilistica dell'ironia, che è la nostra, un pubblico più ampio, e attraverso magari un sorriso, una risata, uno sghignazzo, abbattere, diciamo, quel muro che dice no, ma io queste cose non le faccio. Invece, se prima ci hai riso sopra e poi ti accorgi che sei vittima di quello stesso pregiudizio, cioè vittima, attore di quello stesso pregiudizio su cui stai ridendo, forse ci rifletti con più facilità, no? Anziché andare a fare il predicozzo, sei cattivo, sei razzista, perché poi non penso che ci sia solo questo dietro certe reazioni. Cioè, penso che dobbiamo trovare la capacità di distinguere tra il razzismo, quello vero, duro e puro, quello strumentale per andare a solleticare la pancia della gente, e il disagio che comunque tante persone stanno vivendo in questo momento, e che, non trovando soluzione, trovano almeno un affogo su chi è apparentemente in una posizione più debole di loro, no? Sì. E quindi è su questo che vogliamo andare a incidere. Quindi giovedì alle 3 al meeting antirazzista a Cecina presenteremo questo primo corto, che si chiama Hezbollah e dice che, dove giocheremo appunto su tutto quello che si dice, castronerie di varia umanità, insomma, riguardo un po' alla questione migranti. Sì. E il secondo passo sarà appunto un evento simile con tutti i partner di questo progetto, che sono Legambiente, l'AMPI, l'ARCI, la Fondazione Finanza Etica, a Festa Ambiente il 7 di agosto, sempre con il corto, mentre lo spettacolo vero e proprio debutterà a Cecina. A Cascina, che è il primo comune toscano a guida leghista, a dicembre. Ancora non sappiamo la data esatta. Ci sarà modo di riparlarne comunque. Sì, ne parleremo. Quindi i primi due appuntamenti sono giovedì prossimo a Cecina e poi il 7 a Festa Ambiente a Rispescia, sempre qui in Toscana. Giusy, ci e lasci... Ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più? Certo, allora il nostro sito è www.hezbollah.it, altrimenti non lo trovate. Poi c'è il nostro blog, perché noi siamo un'associazione che si chiama Fabbrica dei Racconti e della Memoria, il nostro blog appunto che è www.fabbricaraccontimemoria.wordpress.com, e poi la pagina Facebook appunto Fabbrica Racconti Memoria, dove Fabbrica dei Racconti e della Memoria, dove potete trovare tutte le informazioni e tutti i riferimenti. Bene, Giusy, un abbraccio in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie mille. E viva il lupo. Viva il lupo. Mi dicono che il lupo, certo, ci protegge. Certo. Ciao, ciao Federico, grazie mille. Ciao. Ciao. Ciao.